Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E dopo due brani in successione, due brani rock belli tosti qui su Radio Stonata, a proposito, ritorniamo in diretta, ritorniamo con la nostra non solo turista di questa sera, ragazzi. Prima già ho steccato sul nome, lei si chiama Elisa Scuto. Buonasera Elisa. Ciao a tutti, buonasera. Allora, fuori onda ci siamo fatti una lunga chiacchierata, ragazzi, già ve lo dico, quindi ho spulciato un po' nella vita di Elisa, però io ora gli faccio la nostra domanda, perché lei è una new entry qui su Radio Stonata all'interno del viaggio, da non solo turista, quindi come hai conosciuto i nostri non solo turisti, Elisa? Allora, è stato uno degli aspetti positivi, diciamo, di entrare nel mondo del blogging per passione. Quindi io ho un piccolo blog mio e i primi contatti positivi sono stati tra gli altri anche con Marco Allegri. Uh-huh. E abbiamo iniziato a collaborare, lui mi ha chiesto di scrivere anche per loro, insomma è stata una bella conoscenza, per ora solo diciamo tramite social, tramite, non ci siamo visti di persona, ma è stata una bella esperienza del condividere questa passione del viaggio. Uh-huh. Allora, dato che hai un tuo blog, ci dici com'è, così lo andiamo a spulciare nel frattempo. Assolutamente, sì. Si chiama Piccoli Grandi Viaggiatori. Mm-hmm. E come potrete immaginare dal titolo, è nato dopo che ho iniziato a viaggiare anche con mia figlia, che all'epoca aveva solo 2 anni. E perché io ho sempre amato chiaramente viaggiare, ho viaggiato da quando ero giovane, però l'idea era proprio la voglia anche di dire ai genitori con bimbi anche piccoli: continuate a viaggiare, se è una vostra passione continuate, trasmettetela ai vostri figli, perché non c'è niente di più bello. Non mm-hmm. dico che sia sempre una passeggiata, sia sempre facile e riposante, però le soddisfazioni superano tutto. Quindi tu sei una viaggiatrice con famiglia al seguito? Sì, assolutamente. Quindi nell'organizzazione del viaggio è fondamentale pensare alle varie tappe, no? Esatto, sì, diciamo che allora, io non sono mai stata una viaggiatrice troppo improvvisata, cioè mi piace comunque programmare, mi godo proprio anche la fase della programmazione, mm-hmm. Del pianificare, e coi bambini chiaramente ancora di più, diventa anche già un po' una necessità, perché certi imprevisti con bimbi molto piccoli, insomma, se si riescono a evitare è meglio. Mm-hmm. E tu qualche settimana fa hai fatto un viaggio in Norvegia, no? Esatto, sì, abbiamo fatto questo viaggio invernale in Norvegia dal 30 dicembre al 13 gennaio, quindi 2 settimane piene. E invernale lo sottolineo perché quando lo raccontavo, diciamo, agli amici, ai conoscenti, mi guardavano tutti tendenzialmente storto, come se fosse un po' una pazza, soprattutto io credo per via dei bambini, infatti. Sapendo che io ho 2 bambini di 2-5 anni. E, insomma, qualcuno mi guardava come una madre snaturata, qualcuno perlomeno come un po' folle. Mm-hmm. E, però io in questi casi sto abbastanza sulle mie, dico, ma no, ma il freddo insomma si copre bene, chiaramente ci si organizza, credo che ce la faremo, credo che sopravviveremo, e non mi sbilancio mai prima, mi piace poi sbilanciarmi dopo che ho viaggiato, quindi con cognizione di causa ora posso dire si può assolutamente fare. E quindi la temperatura che hai trovato là come sono state? Cioè era un freddo proibitivo? È stato particolarmente caldo, è stato un periodo particolarmente caldo, infatti non siamo mai scesi, noi abbiamo viaggiato diciamo da Oslo, quindi dal sud al nord fino a Tromsø. Uh-huh. E praticamente tranne l'ultimo giorno a Oslo, che era -7, non siamo mai scesi sotto i 0 gradi. Ah, quindi è stato un gennaio molto caldo per loro, quindi anche fuori dall'ordinario, perché a Tromsø si può tranquillamente arrivare anche a -20, diciamo, magari se si va fuori città a vedere l'aurora boreale, ad esempio. Uh-huh. Non svelare ancora l'aurora boreale, perché poi ci arriviamo, ma vorrei un po' capire l'organizzazione del viaggio e soprattutto come ti sei regolata sull'abbigliamento, perché comunque sai, sempre 0 gradi, cioè uno sei pure poi con 4 persone, cioè tutto. Come hai fatto Elisa? Allora, partiamo dall'abbigliamento, allora adesso ci siamo. Sì, sicuramente non si può improvvisare andando in Norvegia anche con bimbi piccoli. Quindi noi, ti dico la verità, siamo abbastanza abituati ad andare in montagna perché ci piace anche l'inverno. Quindi qualcosina avevamo, però come sai i bambini poi ogni anno crescono, quindi bisogna ogni anno riacquistare. E per cui abbiamo, ci siamo forniti, diciamo, di negozi specializzati, abbigliamento tecnico. Abbiamo anche avuto la fortuna, nel nostro caso, poi alla fine di avere uno sponsor tecnico, che quindi non sto a dirvi, però diciamo che siamo riusciti con l'abbigliamento tecnico, con store diciamo abbastanza grandi di dimensioni, ma di fascia di prezzo media, a coprirci adeguatamente. Addirittura i bambini poi in certi momenti mi dicevano: mamma, basta, toglici qualche strato perché abbiamo caldo. Quindi alla fine chiaramente però la necessità di vestirsi a strati c'è tutta. Non so, poi magari chi di voi è abituato ad andare in montagna lo sa, però non ci può, cioè sotto diciamo nello strato iniziale bisogna o mettere la lana o fisicamente maglie termiche, calzamaglie termiche. Poi c'è uno strato intermedio pesante che può essere pile, nel caso dei pantaloni, chiaramente pantaloni impermeabili, antivento, antipioggia, perché abbiamo incontrato anche quella, non solo neve. Non solo neve. E sopra che è, no, e poi chiaramente sopra giacche e le coprire le estremità, perché le estremità del nostro corpo sono particolarmente sensibili al freddo, quindi sottoguanti e guanti da neve, cappelli, paraorecchie, scaldacollo in pura lana e assolutamente anche magari due paia di calzettoni sotto delle calzature comunque adeguate come dopo sci. E seguendo il consiglio di alcuni blog che avevo letto prima di partire, abbiamo portato anche i ramponi. I ramponi per il ghiaccio, e il ghiaccio uno pensa chissà quale escursione hanno fatto, invece il problema del ghiaccio si pone semplicemente anche sui marciapiedi di alcune città. Ad esempio, è stato divertente a Tromsø, noi siamo sbarcati. Vabbè, non sto a raccontare tutto, se no mi dici che ti brucio, tu ti racconti. Però diciamo che siamo arrivati al porto di Tromsø e dovevamo percorrere 6 minuti a piedi per arrivare al nostro albergo. Quindi sembra poco. Erano lontanissimi questi 6 minuti, no? È stata un'avventura a causa maltempo, perché c'era una specie di tempesta di neve. Quindi scendevano acqua e neve a seconda del momento, volate di vento pazzesche e c'era piena di ghiaccio per terra. E per cui i ramponi ci hanno veramente aiutato a non prendere delle scivolate pazzesche. Un'altra cosa in cui sono stati utilissimi i ramponi, che fa ridere ma è stato veramente divertente, è sull'Opera House di Oslo, che era chiaramente piena di neve. È una struttura architettonica bellissima che vi consiglio di inserire, diciamo, nella visita di Oslo. E ve lo consiglio pure io, anche se non l'ho vista, però da architetto vedo questo consiglio. E perché lì è fatta, diciamo, inclinata. Da una parte ci sono le scale, dall'altra poi si scende con una discesa molto larga, ma anche di piena di ghiaccio, e tutti barcollavano, diciamo, su questa struttura, sia a salire che a scendere. Invece noi due coi ramponi andavamo tranquilli, ci siamo goduti, diciamo, la vista spettacolare, poi il tramonto, noi ne parliamo, che sta da questo tetto di questa struttura che è proprio sul porto di Oslo con vista sul fiordo. E quindi anche lì si sono rivelati, a sorpresa, perché non c'era ghiaccio sui marciapiedi, si sono rivelati molto utili. Molto utili. Però noi, Elisa, adesso tu sai che cosa, perché siamo anche una radio, quindi dobbiamo ascoltare della musica, ma c'è anche della pubblicità, quindi una piccola pausa pubblicitaria, subito dopo un brano in Maleskin, e poi ritorniamo in diretta con te a parlare ancora di Norvegia e del vostro viaggio, ok? Ok, certo. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Ed erano i Maleskin in diretta qui su Radio Stonata. Siamo sempre in compagnia della nostra new entry di Non Solo Turisti di questa sera, appunto Elisa, qui su Radio Stonata, che ci stava raccontando il suo viaggio in Norvegia. E io, ragazzi, fuori onda l'ho presa un po' in giro perché gli ho detto: sei bravissima, non ti si spegneva più. Vero, Elisa? passione. Quando c'è passione, così a scrivere è uguale per me. Infatti, è un articolo molto bello, ci sono delle foto fantastiche. Ma io vorrei entrare ora proprio nel vivo dell'articolo, perché tu già ci hai raccontato di Aurora Boreale, di cose fantastiche da vedere, però come ti sei organizzata per le tappe? Cioè, eri organizzata giorno per giorno oppure sei andata un po' così? No, ero organizzata giorno per giorno perché, come dicevo, per me proprio la parte organizzativa del viaggio è già una fase di goduria, diciamo, prepartenza, per cui mi piace studiare tutto, mi piace scegliere le varie opzioni, la migliore, eccetera, valutare anche quei prezzi, diciamo, cercare di contenerli, perché comunque per viaggiare in famiglia, insomma, un minimo di Siberia e la Norvegia sono una meta molto cara, ma ove si può cercare di risparmiare qualche cosina, ci provi. È sempre utile. Quindi le tappe sono state pianificate molto, documentandomi le varie guide dalla Lonely Planet, ai vari blog anche di colleghe, blog anche nuovi che ho scoperto cercando su Google, chiaramente, con le varie parole chiave che mi interessavano. E diciamo che è venuto fuori che tranquillamente si poteva riuscire a evitare di noleggiare la macchina, perché c'erano delle rotte molto interessanti, ad esempio il tratto ferroviario a Oslo-Bergen, da racconti di altri viaggiatori è venuto subito fuori come un viaggio, dicono che sia tra i più affascinanti d'Europa e sicuramente è il più alto, perché si passa delle altezze quasi sempre sopra i 1000 metri, diciamo, c'è un altopiano vastissimo al centro prima di entrare poi nella parte dei fiordi più verso Bergen. Ed è stato uno spettacolo, veramente 7 ore di viaggio, quindi può sembrare anche lungo, ma veramente almeno 6 le passerete attaccate al finestrino con la bocca aperta, c'era cioè, sempre un guarda qui, guarda lì, perché il paesaggio è anche vario, non è solo una distesa di neve per 7 ore, ma si alternano dalle foreste appunto all'altopiano innevato, ai laghi ghiacciati, ai fiordi, ai paesini norvegesi che sono poi a volte delle chicche tutti illuminati, piccolissimi, è molto affascinante. E poi l'altro modo per spostarsi all'interno della Norvegia è stato il passare dei fiordi, anche questa è un'esperienza, diciamo un mezzo di trasporto antico che un treno, no? Portava la posta. Dopo il treno, prima il treno, poi siamo arrivati a Bergen. E di lì, proprio da Bergen, parte il postale dei fiordi, che quindi sono navi che una volta erano navi forse abbastanza spartane che trasportavano la posta nei vari villaggi. Vabbè, anche i colori sono spartani, no? Dai, questo nero, rosso, beh, poi il bianco classico della nave, però. Esatto, esatto. Poi chiaramente col tempo si è abbellito, è diventato anche turistico, però ecco, secondo me gran parte del suo fascino lo deve proprio al toccare un po' tutti i paesini lungo i fiordi, perché comunque ancora trasporta la posta, quindi la sua funzione originale l'ha mantenuta e in più si è trasformato comunque in una gran bella nave, ma quello che fa la differenza, come dicevo nell'articolo, è la tratta che si fa, perché si risale fino oltre il circolo polare artico, fino su, fino a Capo Nord praticamente arriva. Noi ne abbiamo fatto solo un pezzo, la parte iniziale da Bergen a Tromsø. Siamo stati su 4 notti, 5 giorni e comunque abbiamo già oltrepassato il circolo polare artico ed è stata un'emozione, perché vedi proprio il paesaggio che cambia, diventa sempre più aspro, ma anche sempre più surreale, è incredibile. Veramente lo consiglio. Ma quindi questa aurora boreale ce l'abbiamo fatto o no a vederla? Qui è il tasto dolente, molto dolente, perché come dicevo il gennaio è stato caldo. Quindi da un lato uno può dire per fortuna, però purtroppo il calore provoca il tempo instabile, infatti abbiamo avuto anche molte nuvole, come dicevo in alcuni casi pioggia, neve, anche la tempesta di neve per non farci mancare nulla, e quindi ad esempio ho prenotato un tour per vedere l'aurora boreale una sera ed è stato cancellato addirittura. Quindi poi il giorno dopo ci siamo ritrovati comunque a voler provare tutti quanti insieme, abbiamo affittato diciamo una macchina con autista e l'abbiamo vista ahimè praticamente solo con la macchina fotografica, perché non so se lo sapete, la macchina fotografica è più potente in questo caso dell'occhio umano, quindi riesce a catturare l'aurora boreale anche quando è coperta dalle nuvole in parte, però comunque sicuramente l'emozione di vederla in toto non l'abbiamo avuta, e destino vuole che torneremo a Tromso, che tra l'altro ho amato molto. Quindi ritorni a Tromso perché è stata e ti manca l'Aurora. Ma oltre all'Aurora qualcosa di caratteristico hai visto? Perché mi sa, hai visto le renne di Babbo Natale, no? Sì, spettacolare. Quella è stata forse la cosa che mia figlia ha più amato. Veramente è stato molto bello in quel giorno in toto, perché abbiamo fatto questa escursione che praticamente siamo stati accolti in un villaggio Sami, quindi è questo popolo che in origine era nomade, che caratterizza tutta la Scandinavia, non solo la Norvegia. E con dialetti simili, diversi ma simili, fino diciamo in Finlandia, anche in Russia, parlano, cioè, appartengono allo stesso popolo Sami. Mm-hmm. E siamo stati ospiti nelle loro tende, ci hanno raccontato un po' delle loro tradizioni in queste tende enormi, dove saremmo stati una sessantina tranquillamente, col fuoco al centro comunque per riscaldarsi. Ma faceva freddo dentro le tende, cioè o si sentiva il calore del fuoco? Si sentiva il calore del fuoco, chiaramente non fa caldo come una casa nostra riscaldata a 20 gradi, ce ne saranno stati 15, però è molto suggestivo, e si può stare qualche ora. Certo, passarci la notte lo fanno, è una proposta che ho visto fare da alcuni tour operator, io non me la sentirei con i bambini, però insomma, volendo c'è anche chi ci dorme, perché poi ti danno di sacchi a pela che isolano anche dal... Però al di là del dormire, che è una scelta personale, l'esperienza è stata bella, e poi ci hanno portato a fare questo giro con le renne in slitta, poi abbiamo dato da mangiare alle renne, ci hanno raccontato molte cose, loro che le allevano proprio, vivono con le renne, molte cose sulle renne anche che noi assolutamente non sapevamo, perché per noi sono un animale un po'... E dimmi una cosa che noi non sappiamo sulle renne, una sola... Ad esempio, non sapevo che ogni anno il maschio, dopo il periodo del calore, quando ha conquistato la femmina, è talmente spostato che perde le corna, dai capo completamente. Cioè, no? Pazzesca sta cosa. E... vi farò anche ridere, queste corna poi rimangono lì alla fine esposte all'aperto, si frantumano, ne viene fuori una polvere che il popolo Sami considera addirittura afrodisiaca. Ah. Quindi viene raccolta e viene utilizzata. Però nel tuo viaggio, Elisa, non c'è stata soltanto, hai anche una parte artistica che forse ti sei dimenticata di raccontarci. Sì, è vero. Allora, diciamo che Oslo, chissà perché io pensavo che non fosse poi così interessante d'inverno. Sapevo che era una bella città, ma diciamo i motivi che mi hanno spinto a inserirla come tappa sono stati, vabbè, intanto chiaramente il volo arrivava lì, quindi era un peccato non vederla, e poi Munch, un famoso pittore, diciamo espressionista, che amo molto. E poi devo dire la verità che all'inizio si era messo male il mio amore per Munch, perché noi siamo capitati il 31 dicembre e il 1 gennaio, che sono dei giorni festivi, e poi ho guardato sul sito, proprio quando ero già là, che purtroppo in quei giorni sia il Museo di Munch che la Galleria Nazionale, diciamo, di Oslo, che conserva ad esempio l'Urlo e altri dipinti molto famosi di Munch, erano chiusi. No. Quindi diciamo che le mie speranze di vedere Munch in quel momento erano pari a zero. Poi in realtà cosa è successo? Questo già prima di partire, che la compagnia aerea ci ha cancellato la coincidenza del ritorno, quindi noi abbiamo dovuto anticipare di un giorno il rientro da Tromso su Oslo, e abbiamo avuto diciamo quel pomeriggio libero a Oslo, perché avevamo il volo il mattino dopo. Mio marito era già pronto a rilassarsi in camera, proprio svacco totale. Poi io ho detto no, attenzione, rimettiti le scarpe, perché oggi pomeriggio è aperta la Galleria Nazionale, che tra l'altro era il suo penultimo giorno di apertura, perché ha chiuso definitivamente adesso, perché stanno costruendo un nuovo fantastico museo che sarà pronto, diciamo, nel quartiere nuovo del porto, che è un quartiere bellissimo, sarà pronto dal 2020, non si sa ancora la data precisa, comunque nel 2020 aprirà, insieme a un nuovo museo di Munch, quindi stanno rifacendo tutta l'area di musei. Oslo è proprio una città in fermento culturale che vi consiglio tantissimo. E comunque era il penultimo giorno di apertura del museo, così finalmente siamo riusciti ad andare, vedere l'Urlo di Munch e altri bellissimi dipinti sia di Munch che di altri artisti, e poi tornare indietro in tempo per la cena. Wow. Riposo zero, ma vi assicuro che ne vale la pena. Elisa, c'è qualcosa che non, di cui ci siamo dimenticati e non ti ho chiesto e vuoi aggiungere, oppure io ti saluto e ti lascio alla tua famiglia? Ma guarda, un'altra cosa sicuramente da non perdere sono i fiordi, però ecco, diciamo che possiamo anche restare d'accordo di rivederci e risentirci, però ecco, il mio consiglio intanto che vi do è sicuramente di non perdere qualche escursione sui fiordi, ad esempio anche partendo da Bergen, che è una zona dove ci sono dei fiordi molto belli, alcuni sono anche patrimonio UNESCO, per cui intanto vi anticipo che un'altra cosa da vedere in Norvegia, che sia inverno, che sia estate, qualsiasi stagione, sono i fiordi. Quindi che facciamo? Ritorna e ci racconti dei fiordi, che dici? Molto volentieri. Beh, facciamo una parte più corta dove ci parli soltanto dei fiordi, dai. Ok, molto volentieri. Ok, quindi un grazie Elisa, sei stata gentilissima e ci sentiamo presto. Va bene, saluti a tutti, grazie. Ciao, buona serata. Ciao a voi, ciao. Viaggia con la mente e scopri nonsoloturisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it